La vita è troppo brutta per passarla soli. Quattro tipe diverse non ne fanno una così. Vent'anni passati a pentirsi degli errori. La vita non è bella come nei film. Come nei film, come nei film. La vita non è bella come nei film. Come nei film, come nei film. La vita non è bella come dei film. La vita è troppo brutta per passarla soli. Baby, vieni qui, spegni la TV, lo sai anche tu. La vita non è un film, non è come la volevi, no. Ma stiamo insieme finché il cuore non ci batte più. Un'altra come te dove la trovo? Manco se girassi il globo, la mia Yoko Ono. Occhi China quando diamo fuoco a questi fiori che riempono di colori il nostro giorno vuoto. Il giorno dopo scordo la mia vecchia vita marcia, quando stavo in strada col cappello a coprirmi la faccia, con gli stessi amici nella stessa piazza. Rovinarci e basta, gonfiare la tasca. Ora riempo una vasca con te a Motel K perché la vita è troppo brutta per passarla soli. Quattro tipe diverse non ne fanno una così. Vent'anni passati a pentirsi degli errori. La vita non è bella come nei film. Come nei film, come nei film. La vita non è bella come nei film. Come nei film, come nei film. La vita non è bella come nei film. Quattro tipe diverse non ne fanno una così. Quattro tipe come te sarebbe bello come nei film. La vita non è bella, non recitare. Noi veri fin dall'inizio, pronti per il gran finale. Il nostro è un film capolavoro. Lo mando da capo ogni giorno, ci provo. Talmente prezioso che merita l'oro. La mente che stacca ed elimina l'odio. Tu che ci legano, passati che ci segnano. Dall'assù nessun segno e tanti ancora lì che pregano. Noi contiamo l'un per l'altro perché abbiamo i numeri. In un mondo di saccenti, canna in bocca, parli stupidi. Sta vita la passiamo assieme, amore, senza un copione. Sarò il tuo attore, baby, buona visione. Sta vita è troppo brutta per passarla soli. Quattro tipe diverse non ne fanno una così. Vent'anni passati a pentirsi degli errori. La vita non è bella come nei film. Come nei film, come nei film. La vita non è bella come nei film. Come nei film, come nei film. La vita non è bella come nei film.